così limpida e pura, che forse per paura con te l'amore non l'ho fatto mai. Cercavo le strade più strane del mondo, invece da te si arrivava per chiari sentieri. E adesso che sento il tuo corpo vicino, nel buio ti chiedo di portarmi con te. Alle porte del sole, ai confini del mare, quante volte col pensiero ti ho portato insieme a me, e nel buio sognavo la tua mano leggera, ogni porta che si apriva mi sembrava primavera. Alle porte del sole, ai confini del mare, quante volte col pensiero ti ho portato insieme a me, ti ho portato insieme a me, ti ho portato insieme a me. Cosa mi dici? Che cosa succede? Mi dici di cercare una casa per vivere insieme? Un grande giardino sospeso nel cielo e mille bambini con gli occhi dipinti d'amore. Allora i pensieri non sono illusioni, allora è proprio vero che io sto volando con te. Alle porte del sole, ai confini del mare, quante volte col pensiero ti ho portato insieme a me, e nel buio sognavo la tua mano leggera, ogni porta che si apriva mi sembrava primavera. Alle porte insieme a me.